115. Crostini di fegatini e acciughe. Fegatini di pollo numero 2, acciughe numero 1. Cuocete i fegatini nel burro e quando l'avranno tirato bagnateli con brodo. Unite una presa di pepe, ma punto sale. Quando sono cotti, tirateli fini insieme con l'acciuga, lavata e nettata. Poi rimettete il battuto nel tegamino dove sono stati cotti i fegatini, aggiungete un altro po' di burro, scaldate il composto al fuoco senza farlo bollire e spalmate con esso delle fettine di midolla di pane fresco.